prima di iniziare è curioso notare come il termine precarietà abbia soppiantato completamente nel dibattito pubblico termini come flessibilità o atipicità dei contratti. Eppure è proprio da questo che stasera parleremo, ovvero della parte normativa dei contratti. Per questo, insieme al nostro buon Andrea Catania, cercheremo di capire quanto lavoro c'è in Italia. In che misura la flessibilità risulta essere una medicina contro la disoccupazione e quali sono le criticità in termini di tutele sociali per i lavoratori a contratto atipico? Grazie, io risponderò a molte meno domande di quelle che ha posto Gaetano perché sinceramente l'argomento è abbastanza ostico e complicato e credo che lo scopo sia adesso dare un po' di spunti su cui basare il dibattito successivo. E un po' di problemi. Da questo punto di vista, darò qualche numero perché spesso si parla di precarietà, di flessibilità e spesso si sente parlare di precarietà come di questione generazionale. Vogliamo un po' capire, al di là di quello che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, in che senso, da un punto di vista macro strutturale, la precarietà è diventata oggi una questione strutturale, soprattutto nel nostro paese. E lo faremo cercando di guardare tre punti in particolare. Guarderemo un po' in che senso la crisi economica ha avuto un impatto negativo soprattutto sulle nuove generazioni, sui più giovani. Cercheremo poi di capire cosa vuol dire essere precari, al di là dell'aspetto contrattuale, perché essere precari ha una serie di ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, sulle condizioni economiche. E infine cercheremo di capire, ma quest'ultima parte è un po' uno spunto alla discussione successiva, non vuole dare una risposta, perché allora si parlava di flessibilità, a volte si parla di precarietà, qual è la differenza e perché parlando di flessibilità negli anni 90 spesso si è arrivati alla precarietà dei giorni nostri. Parlando quindi del primo punto, uno dei dati che emerge è particolarmente interessante, un dato che si è sentito in televisione anche oggi, è quello della disoccupazione giovanile, cioè la disoccupazione tra coloro che hanno meno di 25 anni. E questo dato è particolarmente sconfortante perché il 25% dei giovani italiani non ha un lavoro. Ed è un dato sconfortante soprattutto se paragonato agli altri paesi dell'Europa. Da questo punto di vista l'Italia diciamo che svetta nella classifica, per una volta ma in negativo, e da questo punto di vista si trova alla pari con altri paesi come Grecia, Irlanda, Ungheria e Spagna, che sappiamo essere i paesi che più di tutti hanno subito la crisi economica. Quindi quando si dice che l'Italia non ha subito la crisi economica o è in condizioni migliori degli altri, forse bisognerebbe ricordare che guardando la situazione dei giovani in Italia questo non è assolutamente vero. E non è vero se consideriamo che la disoccupazione per la popolazione normale è dell'8%, per i giovani del 25%, che vuol dire quasi più di 4 volte. L'altro numero interessante da guardare è cercare un po' di capire tra i contratti e quelle persone che sono state licenziate, che tipi di contratti sono stati conclusi. Perché se la disoccupazione giovanile è così alta, questo è dovuto anche alle particolari tipologie contrattuali che i giovani lavoratori hanno quando iniziano un percorso di lavoro. E tra il 2008 e il 2010 ci si sono persi circa 823.000 posti di lavoro e la maggioranza di questi tra chi ha meno di 40 anni. E la cosa più interessante è cercare di capire che tipo di contratti sono questi 823.000 posti di lavoro. E vediamo che di questi 396.000 sono contratti a tempo indeterminato, ma tutti gli altri fanno riferimento a tipologie di contrattuali che normalmente diciamo precari e che comunque sono flessibili. 396.000 contratti a tempo determinato in meno, 75.000 co-co-co in meno, meno 240.000 lavoratori autonomi. E se consideriamo che le cifre iniziali sono più basse, ovviamente 396.000 contratti a tempo determinato in meno vuol dire meno il 16%, quindi vuol dire, tenendo conto che tra quei lavoratori ci sono soprattutto giovani, vuol dire un danno molto forte e si spiega anche il perché della disoccupazione giovanile così alta. Tra l'altro, non c'è soltanto una disoccupazione giovanile alta, ma in Italia chi perde un lavoro di solito non è protetto, perché in molti paesi europei comunque chi perde il lavoro gode comunque di un sussidio di disoccupazione. In Italia sappiamo che esistono strumenti che proteggono dalla disoccupazione, però sono strumenti parziali e soprattutto sono strumenti che non proteggono chi ha contratti atipici. Questo è un indice prodotto dall'OCSE che misura una media del sussidio di disoccupazione su 5 anni. E lo misura rispetto a qual è la percentuale sul salario precedente. Ecco, in Norvegia, in media su 5 anni, i disoccupati hanno un sussidio di disoccupazione che è il 70% del proprio salario. L'Italia è meno del 10%. vicino a Corea, Stati Uniti e Grecia. Il che vi ricordo che questa è una media su 5 anni. Quindi ovviamente magari alcuni lavoratori il primo anno in Italia godono di sussidi di disoccupazione molto alti, ma questo sussidio non è prolungato nel tempo o comunque è soltanto per certe tipologie contrattuali. E quindi questo vuol dire aggiungere danno alla beffa. E il secondo punto è essere precari. Cosa vuol dire essere precari? E qui mi rifaccio a un dato che citava prima Gaetano. Si è sentito parlare tanto negli ultimi tempi del problema pensioni... del problema pensioni, precarietà. È stata la dichiarazione del direttore dell'INPS che sembrerebbe avesse dichiarato che i dati sulle pensioni dei subordinati non vengono comunicati perché sennò si rischierebbe una sommossa sociale. Qui vi è una simulazione di un certo tipo in cui non si prende il lavoratore precario che è precario per tutta la vita, si fa una simulazione tipo media, si dice prendiamo un ragazzo che dai 25 ai 28 anni è un cuoco pro, 29 anni diventa disoccupato, 29-31 anni ha un contratto a tempo determinato, poi ritorna disoccupato, poi trova un altro contratto a tempo determinato e finalmente a 35 anni trova il posto fisso. Diciamo un caso medio. Ecco, quelle due curve vanno a vedere la differenza di salari tra chi ha un contratto, un posto fisso dai 25 anni in poi, quindi per sempre, ed è la curva blu, e chi invece ha questo tipo di carriera lavorativa. E come vedete la forbice differenza tra i salari si allarga sempre di più. Ovviamente è un caso medio per un lavoratore con un titolo di studio medio, un uomo, perché per le donne la situazione sarebbe ancora peggiore, e quindi vediamo che alla fine della carriera lavorativa la differenza di guadagno è di 600 euro. E questo ovviamente poi ha un impatto sulla pensione. Questa stima che è stata fatta da Boeri e Galasso stima poi che circa il 60% che un lavoratore precario avrà una pensione finale più bassa del 60% rispetto a chi ha un contratto a tempo fisso continuo. E lo vediamo nei numeri, sono numeri un po' diversi da quelli che si citano spesso, però diciamo che con ipotesi di entrare in pensionamento diverse, se si va in pensione a 67 anni, un lavoratore cosiddetto duale, perché ha una carriera discontinua, avrà una pensione mensile di 950 euro al mese contro i 1500 di chi avrà un lavoro fisso per tutta la vita. Ovviamente se si va in pensione prima, la cifra scende. Ovviamente ci sono stime anche diverse, questa è una stima legata a quel tipo di ipotesi che si faceva prima, però ci dà l'idea della drammaticità del fatto. L'altro dato interessante è il miraggio del posto fisso, perché spesso si dice va bene, io inizio un contratto a tempo determinato, forse un giorno avrò un contratto a tempo indeterminato. Questa tabella fa vedere se nel 2004 ho un certo tipo di contratto, a tempo indeterminato, tempo determinato, poco pro, che cosa si fa nel 2005? Prende un set di lavoratori, su 100 lavoratori che hanno un certo tipo di condizione nel 2004, che cosa si fa nel 2005? Bene, chi ha un contratto a tempo indeterminato tende a restare a tempo indeterminato. Ma la cosa grave, questo qua, meno male, la cosa un po' più drammatica è che chi ha un contratto a tempo determinato resta a tempo determinato. Il 70% dei casi restano in quella condizione, non passano a tempo indeterminato. E lo stesso vale per esempio che per chi ha un contratto a progetto. Anche qui il 77% resta con un contratto a progetto. Quindi vuol dire che è una situazione che tende a portarsi avanti nel tempo. Questo qua ovviamente da un anno a un anno, poi magari guardando archi temporali più lunghi la situazione cambia, però è senza dubbio un indicatore importante. E un'indagine Istat sulle forze lavoro prende la media dei salari di coloro che hanno un contratto a tempo determinato e stima che in media hanno 350 euro in meno di chi ha un contratto a un posto fisso. Però si potrebbe dire, vabbè, ma chi ha questa stima è dovuta al fatto che chi ha un tempo determinato è un lavoratore giovane, quindi in media i giovani comunque hanno uno stipendio più basso, magari sono lavoratori meno istruiti, magari sono donne, e quindi in realtà non è dovuto al contratto in sé, ma è dovuto ad altri fattori. In realtà, stimando anche questi fattori, cioè a parità di istruzione, di differenza di età di genere, quindi mettendo da parte questi fattori, controllando per questi fattori, vi è ancora una differenza del 25%. E questo vuol dire che l'effetto è abbastanza pesante. Perché flessibilità? Non risponderò a questa domanda, però voglio farvi vedere una tabella. Qua fa vedere qual era la percentuale di persone con un contratto a tempo determinato all'inizio degli anni 80 e qual è adesso, sul totale dei lavoratori italiani e sulla popolazione tra i 15 e i 24 anni. E la percentuale è aumentata per tutti, è aumentata anche per la popolazione totale. Ma oggi, nel 2009, abbiamo che il 45% dei giovani tra i 15 e 24 anni che lavorano, quindi esclusi quelli che non lavorano, lo fanno con un contratto a tempo determinato. E quindi da questo dà l'idea che comunque è una tipologia contrattuale che viene soprattutto utilizzata per i più giovani. Questo potrebbe anche essere un metodo per entrare nel mondo del lavoro, però il problema è che qualche dato che abbiamo visto prima ci mostra che forse non è proprio il canale con che si trasforma in un posto fisso, ma poi spesso è una condizione che resta quella. E di flessibilità si è cominciato a parlare negli anni 90, uno dice, vabbè, ma se ci sono vincoli al licenziamento si licenzia di meno. Però se ci sono vincoli al licenziamento molto forti, come erano in Italia negli anni 80, la controparte è che si assume anche di meno. Quindi da questo punto di vista si reagisce meno velocemente alle variazioni del mercato. Qual è l'effetto finale? L'effetto finale nel breve periodo è abbastanza dubbio. Nel lungo periodo però è probabile che alla fine le aziende tendano ad assumere di meno per mantenersi un po' più tranquille, la produttività diminuisce e tendono a compensare il fatto che magari c'è troppa rigidità con salari più bassi. Gli economisti avevano coniato un termine negli anni 90 che parlavano di eurosclerosi per indicare la situazione dei mercati dei lavoratori e dei mercati del lavoro europei. Qua fa vedere la disoccupazione in Italia, dell'ultima tabella che faccio vedere, e fa vedere com'era la disoccupazione negli anni 90. Le due linee rosse corrispondono alle due riforme del lavoro più importanti che ci sono state in Italia, la riforma 3 e la riforma Biagi. Non si vuole in nessun modo mettere in luce una relazione causale, però in ogni caso è evidente che prima di questa riforma la disoccupazione, soprattutto giovanile, ma anche la disoccupazione generale, era particolarmente alta. Dopo queste due riforme, anche in un periodo di non crescita economica, la disoccupazione si è ridotta. Quindi, a un certo punto di vista, l'introduzione di nuove tipologie contrattuali ha portato a una riduzione della disoccupazione. Il problema è come. E qui concludo dicendo che certe categorie dei lavoratori sono particolarmente danneggiati dalle rigidità. Perché se devi entrare nel mercato del lavoro, e il mercato del lavoro è rigido, è difficile entrare nel mercato del lavoro. E questi sono soprattutto donne e uomini. Inoltre, un luogo comune si sente dire, però forse è anche vero, che la competizione internazionale rende necessario alle imprese di variare in maniera più veloce la forza lavoro. Però il problema è perché precarietà, perché flessibilità si parla dappertutto, in altri paesi però la flessibilità c'è, ma c'è anche la contropartita, cioè protezione con sussidi di disoccupazione con altre cose, in altri paesi comunque i giovani riescono alla fine ad avere un posto fisso e stabilità. Quindi concludo in questo modo dicendo che la situazione senza dubbio è complessa, abbiamo visto un po' di numeri, spero che sia uno spunto utile per la discussione, anche perché forse per cercare di capire se flessibilità è sempre uguale a precarietà o se può essere la buona flessibilità e in che modo.